tanta triste amore dirsi addio. Stasera tremo in pietà, oh cuore mio, ma dolce, dolce, dolce era ne vas, dolce, dolce per te saranno giorni come nate. Per me tutto in un mondo se ne chiude, ma dolce, dolce, dolce era ne vase, dolce, dolce. O tempo passerà, una donna ti stringerà, allora tu forse tremando ricorderai come ha chiamato questi occhi tuoi, sta bocca tua. Dolce, dolce, era ne vas, dolce, dolce. Dolce, dolce, dolce.